se la guerra non aveva aumentato l'intelligenza di Saint-Leu. Bisogna tuttavia dire che essa, grazie a un'evoluzione cui dava un gran contributo l'ereditarietà, aveva preso un che di brillante che non vi avevo mai ravvisato. Che distanza fra il giovane damerino, corteggiato un tempo dalle donne eleganti o che aspiravano a diventarlo, e il disquisitore, il pedante che non la finiva mai di giocare con le parole. In un'altra generazione, su altre basi, come un attore che riprenda la parte recitata un tempo da Bresson o da Delaunay, era una sorta di successore, roseo, biondo e dorato, mentre l'altro era metà nerissimo e metà tutto bianco, del signor di Charlieu. Per quanto non andasse d'accordo con suo zio sulla guerra, giacché si era allineato con quella frazione dell'aristocrazia che metteva la Francia davanti a tutto, mentre Charlieu era, nel fondo, dispattista, egli poteva mostrare a chi non aveva conosciuto il creatore della parte come si potesse eccellere nell'arte del cavillo. «Sembra, gli dissi, che Hindenburg sia una rivelazione». «Una vecchia rivelazione», replicò vivacemente, «o una futura rivoluzione. Si sarebbe dovuto, anziché risparmiare il nemico, lasciare agire Mangin, abbattere l'Austria e la Germania ed europeizzare la Turchia, anziché montenegrizzare la Francia». «Ma avremo l'aiuto degli Stati Uniti», osservai. «Nel frattempo qui non vedo altro che lo spettacolo degli Stati disuniti. Perché non fare concessioni più ampie all'Italia per paura di decristianizzare la Francia?» «Se ti sentisse tuo zio Charlieu», esclamai, «a te in fondo non dispiacerebbe che si desse ancora un po' più fastidio al Papa. E lui si dispera al pensiero dei guai che possono capitare al trono di Francesco Giuseppe. In questo, d'altronde, si allinea dichiaratamente alla tradizione di Talleyrand e del Congresso di Vienna». «L'epoca del Congresso di Vienna è finita», rispose Robert. «Alla diplomazia segreta bisogna contrapporre la diplomazia concreta. Mio zio, in fondo, è un monarchico impenitente a cui si possono far inghiottire delle carpe come Madame Mollet o delle scarpe come Arthur Meyer, a patto che si tratti di carpe e scarpe alla Chambord. Per odio del tricolore, credo che si attrupperebbe piuttosto sotto lo straccio del bonnet rouge, che scambierebbe in buona fede per la bandiera bianca». Certo, non erano che parole, e Saint-Leu era ben lontano dall'avere l'originalità, a volte profonda, dello zio. Ma era tanto affabile e affascinante di natura quanto l'altro era sospettoso e geloso, ed era rimasto affascinante e roseo come a Balbec, sotto tutti quei suoi capelli d'oro. La sola cosa in cui suo zio non l'avrebbe superato era quella mentalità del Faubourg Saint-Germain, di cui sono impregnati coloro che più credono d'essersene allontanati e che ispira loro il rispetto delle persone intelligenti di nascita oscura, che attecchisce veramente solo nella nobiltà e rende le rivoluzioni così ingiuste, misto ad un tempo a una sciocca soddisfazione di sé. In virtù di questo miscuglio di umiltà ed orgoglio, di curiosità cerebrali acquisite e di autorità innata, Charlieu e Saint-Leu, per strade diverse e con opinioni opposte, erano diventati, a una generazione di distanza, intellettuali interessati ad ogni nuova idea e conversatori che nessun interruttore può ridurre al silenzio. Una persona un po' mediocre poteva trovarli così, a seconda della disposizione d'animo in cui si trovasse, ammalianti o noiosissimi. «Ti ricordi?» gli dissi, «le nostre conversazioni di Dancier, eh? Tempi beati! Che abisso ce ne separa! Rinasceranno mai quei bei giorni? Du gouffre interdit à nos sondes, comme monte au ciel le soleil rajeuni, après s'être lavé au fond de mer profonde». «Pensiamo a quelle conversazioni, solo per evocarne la dolcezza», gli dissi. «Io cercavo di ricavarne una verità d'un certo genere. La guerra attuale, che ha sconvolto tutto e in particolare, stando a quel che mi dici, l'idea della guerra. Ha tolto valore a ciò che mi dicevi allora, riguardo a certe battaglie, per esempio le battaglie di Napoleone, che sarebbero state imitate nelle guerre future? Assolutamente no, rispose Robert. La battaglia napoleonica si ritrova sempre, e tanto più in questa guerra, dal momento che Hindenburg è imbevuto di spirito napoleonico. I suoi rapidi spostamenti di truppe, le sue finte, sia che lasci un'esigua cortina davanti a uno dei suoi avversari per piombare in forze sull'altro, Napoleone 1814, sia che porti a fondo una diversione che costringe l'avversario a mantenere le proprie forze su un fronte che non è il principale. Vedi la finta di Hindenburg davanti a Varsavia, grazie alla quale i russi, ingannati, concentrarono là la loro resistenza e furono battuti sui laghi Masuri. I suoi ripiegamenti, analoghi a quelli con cui cominciarono Austerlitz, Arcole e Kmüll, tutto in lui è napoleonico e non è finita. Aggiungo che se vorrai cercare lontano da me di interpretare via via gli avvenimenti di questa guerra, non dovrai fidarti troppo di questa particolare maniera di Hindenburg per trovarvi il senso di ciò che fa, la chiave di ciò che sta per fare. Un generale è come uno scrittore che intende fare un certo dramma, un certo libro, e che il libro stesso, con le risorse inattese che rivela in un punto, le difficoltà che presenta in un altro, fa deviare moltissimo dal piano concepito inizialmente. Dato che una diversione, per esempio, deve essere fatta per forza su un punto che sia di per sé abbastanza importante, supponi che la diversione riesca al di là di ogni speranza, mentre l'operazione principale si risolve in un fallimento. Ecco che la diversione, allora, può diventare l'operazione principale. Aspetto Hindenburg a uno dei prototipi della battaglia napoleonica, quella che consiste nel separare due avversari, gli inglesi e noi. Mentre ricordavo così la visita di Saint-Lô, non avevo smesso di camminare, facendo una deviazione troppo lunga. Ero quasi al Pont des Invalides, i lampioni alquanto scarsi per via dei Gotha. Erano accesi un po' troppo presto, perché il cambiamento d'ora, fissato per tutta la bella stagione, così come i caloriferi vengono accesi e spenti a partire da una certa data, era stato introdotto un po' in anticipo, quando il buio scendeva ancora abbastanza rapidamente e al di sopra della città illuminata per la notte, in tutta una parte del cielo che era ignaro dell'ora estiva e dell'ora invernale e non si degnava di sapere che le 8:30 erano diventate le 9:30, in tutta una parte del cielo continuava a esserci un po' di luce. In tutta la parte della città, dominata dalle torri del Trocadero, il cielo faceva pensare a un immenso mare, dalle sfumature di turchese che si stesse ritirando, lasciando già emergere tutta una linea leggera di rocce nere, forse anche semplici reti da pesca allineate l'una dopo l'altra, che altro non erano se non piccole nubi. Mare, in quel momento, color turchese, e che porta via con sé, senza che loro se ne accorgano, gli uomini trascinati nell'immensa rivoluzione della terra. Della terra su cui essi sono tanto folli da continuare le loro proprie rivoluzioni e le loro vane guerre, come quella che in quel momento insanguinava la Francia. Del resto, a forza di guardare il cielo pigro e troppo bello, che non si degnava di cambiare orario e al di sopra della città illuminata prolungava mollemente, in quei toni azzurrognoli, il giorno che s'attardava, si era presi dalla vertigine. Non era più una distesa marina, ma una gradazione verticale di azzurri ghiacciai. E le torri del Trocadero, che sembravano così vicine alle sfumature di turchese, dovevano esserne estremamente lontane, come quelle due torri di certe città svizzere che nella lontananza si ha l'impressione che stiano accanto alle pendici delle cime. Tornai sui miei passi, ma una volta lasciato il Pont des Invalides, Nel cielo non c'era più chiaro, non c'era quasi più luce, nemmeno nella città. E ruotando qua e là contro i recipienti delle immondizie, prendendo una strada per l'altra, mi trovai, senza rendermene conto, seguendo un dedalo di vie oscure a sbucare sui boulevard. Là, quell'impressione d'Oriente che già avevo avuta si rinnovò. E d'altra parte, all'evocazione della Parigi del direttorio succedette quella della Parigi del 1815. Come nel 1815 sfilavano le più disparate uniformi delle truppe alleate e, fra queste, degli africani in gonna pantalone rossa, degli indù dai turbanti bianchi, bastavano perché di quella Parigi in cui stavo passeggiando io facessi tutta un'immaginaria città esotica, in un Oriente al tempo stesso minuziosamente esatto per quanto concerneva i costumi e il colore dei volti e arbitrariamente chimerico per quanto concerneva lo sfondo, così come Carpaccio fece della città in cui viveva una Gerusalemme o una Costantinopoli, riunendovi una folla la cui meravigliosa screziatura non era più accesa di questa. In atto di seguire due zuavi che sembravano curarsi pochissimo di lui, vidi un uomo grande e grosso con un cappello floscio di feltro e una lunga guarnacca al cui viso color malva rimasi incerto se attribuire il nome di un attore o quello di un pittore ugualmente noti per innumerevoli scandali di sodomia. Ero sicuro, in ogni caso, di non conoscere il passante e fui dunque assai stupito quando i suoi sguardi incontrarono i miei, vedendo che appariva imbarazzato e che a bella posta si fermò e mi venne incontro come chi vuol mostrare di non essere stato affatto sorpreso mentre si dedica a un'occupazione che avrebbe preferito tenere segreta. Per un attimo mi chiesi chi mi stesse salutando. Era il signor de Charlus. Si può dire che l'evoluzione del suo male o la rivoluzione del suo vizio fosse per lui a quel punto estremo in cui la piccola personalità primitiva dell'individuo, le sue qualità ancestrali, sono completamente intercettate dal passaggio davanti a loro, del difetto o del male generico da cui sono accompagnati. Il signor de Charlus era arrivato il più lontano possibile da se stesso, o meglio, era lui stesso così perfettamente mascherato da ciò che era diventato e che non apparteneva a lui solo, ma a molti altri invertiti, da farmelo scambiare al primo momento per un altro di loro, dietro quegli zuavi, in pieno boulevard, per un altro di loro che non era il signor de Charlus, non era un gran signore, non era un uomo di immaginazione e di spirito, e la cui unica somiglianza con il barone era quell'aria comune a tutti e che adesso, in lui, copriva ogni altra cosa, almeno finché non ci si metteva a guardare con più attenzione.